Bentrovate a tutte. Ciao, ci siamo ricompattate per appunto aprire l'agenda di oggi. Gli atti e i misfatti. Esatto. Non sappiamo se parliamo più di atti o di misfatti, ma il titolo è azzeccatissimo. Bisogna. Sì, appunto, volevamo raccontarvi, insomma, restituirvi un po' com'è andata l'assemblea che era stata indetta dopo il sit-in del 18 ottobre all'Aquila. Chi ci ascolta, insomma, ricorderà tutta questa vicenda che il martedì anche in particolare ha seguito. E il sit-in, ne abbiamo parlato anche martedì scorso, è andato molto bene. Al termine di questo sit-in si è tenuta un'assemblea e le donne, le femministe e le lesbiche là presenti hanno indetto un nuovo incontro qui a Roma per il 28 ottobre, un incontro nel quale si doveva valutare insieme la possibilità di organizzare una manifestazione unitaria all'Aquila il 25 novembre. E i motivi per cui sia noi che molte delle presenti riteniamo particolarmente interessante il territorio dell'Aquila, ma non interessante in senso antropologico, proprio interessante per anche noi, se. Insomma, sì, questo laboratorio, insomma, della riorganizzazione della con la disciplina, sì, della popolazione aquilana. E abbiamo parlato di una come dire, sperimentazione di nuove tecniche di dislocamento della popolazione. Abbiamo detto moltissime cose su quel territorio, tante cose le abbiamo dette intorno alla militarizzazione pesantissima che l'Aquila, come ai noi altri centri, sta vivendo dal terremoto in poi, e ovviamente la vicenda dello stupro di Pizzoli, per cui siamo andate appunto sotto il tribunale, richiamava in molte di noi anche la necessità, insomma, di denunciare in primis questi abusi, insomma, degli uomini in armi, e poi di interrogarci anche in particolare sullo specifico di questo tipo di militarizzazione. E quindi in realtà l'assemblea ha raccolto molte compagne femministe e lesbiche, e anche donne femministe e lesbiche singole non appartenenti a gruppi, interessate molto a questo argomento, cioè al mettere insieme un po'. E anche che venivano da parti dell'Italia che comunque erano state al presidio, erano anche riuscite a venire giù al presidio. Sì, infatti. C'era una composizione di alcune città, o comunque di persone che venivano da città diverse da Roma. Sì, c'erano, insomma, appunto noi, il collettivo delle Ribellule, il Centro Donna Lisa, le femministe e lesbiche del 22, il CLR, le connettive, le compagne anche della redazione di Onda Rossa. C'era ovviamente il Centro Antiviolenza dell'Aquila, le singole anche dell'Aquila, Amazzora, quelle che non ci stanno di Bologna, una compagna dell'MFPR di Milano, cioè abbiamo l'elenco, Clitoristrix di Bologna, una compagna del Coordinamento Donne di Trieste, Andaiola dalla Sardegna. Insomma, è stata un'assemblea partecipata da questo punto di vista, ovviamente non con un respiro nazionale in senso proprio, ma insomma, ma noi delle nazione. Sì, ce ne frega tra poco. L'altro, ma infatti, però, insomma, ecco, per dire, questi erano i gruppi presenti. E noi, vabbè, tra le restituzioni vi proponiamo anche, l'abbiamo rifatto un po' a manifesto, una lettura a tre voci dell'intervento che abbiamo fatto come martedì in quel contesto, un intervento di apertura. Diciamo subito che l'abbiamo fatto più serio in assemblea, questo è più divertente, più dinamico, mi sembra. Ti sembra, in assemblea, anche siamo state molto frizzanti. No, scherzo. No, era così, per dire. Ci sembrava utile, non per auto assolutamente compiacerci, ok, ma perché in questo intervento noi abbiamo fatto lo sforzo, insomma, di ragionare sugli ultimi anni del femminismo in Italia, del femminismo radicale, auto-organizzato. E ci sembrava importante valorizzare in effetti tutta una serie di percorsi che erano stati iniziati e che poi in questi ultimi anni si sono anche un po' sfilacciati. Troviamo importantissimo ricomporre questi diversi ragionamenti, e quindi abbiamo pensato ad un intervento che proponiamo anche ai microfoni, la cui utilità appunto dovrebbe anche essere quella di farci ritrovare un po' di nuovo tutte intorno ad una serie di affermazioni che negli anni siamo andate a fare su quella che è la violenza degli uomini contro le donne, e che appunto ci ha visto anche lavorare insieme. Allora, lo leggiamo a più voci. La nostra analisi della violenza maschile sulle donne è radicale, nostra ovviamente anche come martedì, ma non solo, rispecchia anche i gruppi che erano presenti in assemblea, del punto il femminismo, femministe e lesbiche auto-organizzate. La nostra analisi della violenza maschile sulle donne è radicale, nel senso che ne indaga le radici. Il percorso alle nostre spalle è lungo e approfondito, le nostre pratiche sono conflittuali. In Italia un giorno sì e uno no, un uomo uccide una donna. Il termine femminicidio indica ogni forma di violenza commessa da un uomo su una donna in quanto donna, quindi stupri, violenza, abusi fisici, molestie, persecuzioni, eccetera. Abbiamo detto che la violenza degli uomini sulle donne è frutto della cultura e del sistema patriarcale, serve a mantenere le donne sottomesse e a punire e riappropriarsi delle lesbiche. La violenza degli uomini sulle donne serve a perpetuare questo sistema di oppressione, il patriarcato, che è perfettamente allineato con gli altri sistemi economici, il capitalismo, il neocolonialismo, e con dispositivi ideologici di oppressione, il fascismo e il razzismo. Ci sono dei chiari e forti nessi tra la violenza privata e domestica sulle donne e la violenza istituzionale dello Stato sempre sulle donne. La violenza sulle donne non ha colore, né passaporto, né classe, né età, ma ha un unico genere, sono gli uomini a compierla. L'assassino ha le chiavi di casa. I luoghi della violenza sono molti, ma gli uomini che la commettono sono quasi sempre conosciuti. Mariti, padri, fidanzati, ex fidanzati ed altri uomini conosciuti, dottore di lavoro, professore, medico. Per le donne la precarietà economica significa minor reddito e dipendenza economica dai mariti. Femminilizzazione del lavoro, destrutturazione del mercato del lavoro, precarietà, disoccupazione, peggioramento delle condizioni lavorative, misure anticrisi, spingono le donne ai margini del mercato del lavoro e le obbligano a sopperire alla mancanza cronica di servizi sociali. I media esistono in quanto vendono i corpi delle donne. Sistema mass mediatico e sistema educativo perpetuano la cultura della violenza e i ruoli stereotipati di sottomissione delle donne. Nei CIE la polizia stupra. La violenza sulle donne è perpetrata sistematicamente dagli uomini in armi e in divisa, nei commissariati, nei CIE, nelle carceri. Gli uomini in divisa ricattano, sottomettono e torturano con abusi e violenze sessuali le donne e soprattutto quelle senza documenti, rinchiuse, fermate in manifestazioni. Gli uomini legalmente armati stuprano ed uccidono le donne perché possono farlo. Godono di tutti i privilegi dell'appartenere alle istituzioni come esercito e forze dell'ordine, che agiscono in monopolio della violenza da parte dello Stato. Hanno le spalle coperte, sono impuniti e sono addestrati per farlo. Gli uomini in armi e in divisa stuprano e uccidono le donne nei territori occupati. Dai luoghi del mondo in cui sono impegnati in missioni militari all'estero a tutte le città italiane in cui sono impegnati nelle operazioni di controllo del territorio e strade sicure. Pensiamo all'Aquila, alla Sicilia, alla Sardegna, alla Val di Susa. Non è questa la sicurezza che vogliamo, questo è quello che è uscito da questa assemblea. Denunciamo la strumentalizzazione della violenza maschile sulle donne per fini repressivi, razzisti e di controllo sociale. Con l'aumento del controllo sociale diffuso le donne vengono ricacciate in famiglia e ciò significa maggiore esposizione alla violenza. Le donne sono doppiamente controllate da mariti e dallo Stato. Parliamo di stupri di guerra e di guerra quotidiana degli uomini contro le donne. La sistematicità della violenza degli uomini in divisa è la cartina tornasole della violenza degli uomini sulle donne. Gli uomini in divisa stuprano nei commissariati perché tutti gli uomini stuprano, picchiano, ricattano sessualmente, eccetera. E lo fanno soprattutto, abbiamo visto, nelle famiglie. Ci riguarda tutte, che è lo slogan, diciamo così, con cui siamo scese anche in piazza al presidio all'Aquila. Ci riguarda tutte perché un singolo stupro toglie potere a tutte noi, è una ferita per ognuna di noi, mentre accresce i privilegi di tutti gli uomini e aumenta la loro capacità di controllo sulle donne attraverso la paura. Un singolo stupro limita quindi la libertà di tutte noi, di ognuna di noi, per questo è importante la solidarietà tra tutte le donne. E poi un altro punto percorso molto importante secondo noi da ricomporre è quello sull'autodifesa, cioè appunto affermare una volta per tutte che le donne hanno diritto di difendersi con tutti i mezzi a loro disposizione. Le donne già lo fanno peraltro, quindi alcune parole che avevamo appunto individuato sono: guai a chi ci tocca, le donne sanno difendersi quotidianamente dalla violenza degli uomini, le pratiche di autodifesa femminista fanno parte, devono far parte dei nostri percorsi. Autodifesa significa sapere che no significa no, nella vita quotidiana saper riconoscere quando il proprio spazio vitale viene invaso, fidarsi quindi del proprio istinto, riconoscere una situazione di pericolo, riconoscere che stiamo vivendo all'interno di una situazione di violenza, rivolgersi alle altre donne. Autodifesa è anche il lavoro delle compagne dei centri antiviolenza, è autodifesa legale, è autodifesa un centro antiviolenza che si costituisce parte civile, è autodifesa in questo senso anche la costruzione di mezzi di comunicazione autogestiti e auto-organizzati dalle donne, e quindi le donne si stanno già difendendo, dobbiamo farlo probabilmente meglio e insieme soprattutto, e quindi diciamo a tutte le donne che possono e devono ovviamente difendersi. Questo era, diciamo, un po', ecco, l'intervento che abbiamo proposto, che voleva appunto rimettere insieme un po' i percorsi che negli ultimi anni si sono sviluppati, e in particolare, visto che parliamo di un territorio con tutte le problematiche del caso, di militarizzazione eccetera, la connessione per noi importantissima tra la violenza domestica, che appunto grazie ai centri sappiamo essere l'80% delle violenze, e quella istituzionale. Nel trovare questi nessi forse possiamo, diciamo, fare un percorso comune. Comune. Nell'assemblea, diciamo, è emerso in generale da tutti gli interventi un desiderio molto forte, un bisogno appunto di scendere in piazza, di riprendere l'azione, insomma, di tornare a coordinarci per momenti di mobilitazione da costruire insieme. E quindi è stata, diciamo, ben accolta questa proposta di costruire insieme un percorso, di rimetterli comunque insieme. Ci siamo anche trovate, insomma, molto d'accordo sui contenuti, insomma, più o meno elencati anche nel nostro intervento, cioè appunto la connessione tra la violenza privata e la violenza istituzionale, l'importanza che ha la violenza economica, quindi il ricatto, insomma, diciamo, che le donne subiscono legato alla precarizzazione, che le mette ancora più a rischio. Ci siamo trovate anche, insomma, più o meno d'accordo sul fatto che la violenza degli uomini in armi e in divisa è una esperienza che magari appunto non tocca molto chi lavora nei centri, che ha a che fare con questo 80% di casi che sono tutti legati alla casa, ma è un'esperienza che attraversa le vite di molte di noi, delle irregolari, delle immigrate, di, insomma, tutte quelle che non rientrano perfettamente, delle militanti, per cui è importante cercare di connettere anche questo percorso, questo tipo di analisi, secondo me molto importante, secondo noi, con tutto quello che abbiamo detto finora sulla violenza degli uomini contro le donne. Che poi il ragionamento tiene perfettamente, secondo me. Cioè, sì, non sì, è infatti proprio non c'è una difficoltà in tutto questo. Poi, vabbè, altre cose che sono uscite. Sì. Sono uscite anche altre riflessioni. Una di queste è, per esempio, la solidarietà alle donne che si sono difese e che stanno in carcere per questo, che è un discorso che sta prendendo piede qua da noi, insomma, tra il movimento da poco, e che probabilmente non è stato mai abbastanza approfondito. E più che altro quello che è uscito è stato un bisogno molto grande, in realtà, di scendere in piazza contro la violenza degli uomini sulle donne, e questo tipo di intervento, diciamo, questo tipo, insomma, di linea è stata quella che ha un po' accompagnato tutti gli interventi uno dietro l'altro. Hanno iniziato le compagne di Roma, poi hanno continuato anche le compagne dell'Aquila, anche le compagne di Milano, le compagne di Bologna. mettendo un po' l'accento anche sul fatto che in questo momento molte donne vivono una condizione di isolamento politico e quindi, diciamo, hanno bisogno che si parli e si manifesti contro la violenza nei loro territori, e che probabilmente ci sono tantissime donne che non aspettano altro, forse, che qualcuna inizi e che ci sia un luogo e ridi, però è vero, molte volte è così, insomma, che cominci qualcuna solo per alimentare un po' questa scintilla che si potrebbe propagare tantissimo, secondo me, secondo noi, in questo periodo. E, ma più che altro, diciamo, gli interventi sono andati un po' molto su questa linea. Sì, c'era appunto voglia. Sì, poi fare, abbiamo anche, in realtà, rispetto alle ultime volte che ci siamo viste, quindi anche magari 2 o 3 anni fa in cui ci siamo viste tutte insieme a livello nazionale, dal 2007, dal 2009, ci sono state delle novità, magari anche degli avanzamenti o delle riflessioni che ci hanno portato un po' più avanti, e soprattutto la comparsa in questi ultimi anni, in modo, diciamo, abbastanza forte, purtroppo, di un femminismo moderato di destra, che praticamente, insomma, l'abbiamo visto anche magari nelle manifestazioni di Se non ora quando, abbiamo visto un tentativo di riportarci indietro, un tentativo di dividerci di nuovo tra donne che lavorano e donne che non lavorano, donne per bene e donne per male, diciamo. Questo è un discorso che è stato affrontato molto in questa radio, un femminismo moderato, un po' pseudo femminista, che non affronta né la crisi economica, né la precarizzazione delle vite, né i tagli a tutti i servizi sociali, sì, che possono essere utili alle donne, sia che insomma, sono vittime di violenza, ossia che abbiano bisogno di qualsiasi altra cosa. Abbiamo dato anche molto rilievo alle lotte che ci sono in vari territori, come dicevi tu, per esempio in Valsusa, in cui parleremo dopo di questo. Ci saranno 2 giorni, già l'avevamo annunciato l'altra settimana, saranno 2 giorni di donne, organizzata proprio dalle compagne di su, e quindi... Sì, infatti. Diciamo che... vuoi aggiungere? Sì, no, un'ultima riflessione, sì, l'ho vista una, un'ultima riflessione che mi sembrava interessante, che è fatta da una compagna di Roma, che la lotta contro la militarizzazione va letta a livello internazionale e mediterraneo, e vediamo anche come le donne in Egitto magari non si sono organizzate, ma si sono ritrovate là nelle piazze per agire il conflitto. Sì, infatti è sicuramente anche una ponte di connessione con tante altre lotte, ed è anche molto urgente a questo punto, diciamo, connetterci con altre lotte. Noi crediamo veramente che la strada sia quella di misurarci insieme su un percorso unitario, allargato e pensato a livello proprio di tutta Italia. Tuttavia, diciamo, purtroppo, ai noi, in quell'assemblea non si è raggiunta, cioè non si è valutata la possibilità di fare una manifestazione il 25 novembre all'Aquila, come diciamo era stata invece preventivata in un primo momento, auspicata, sia dopo il sit-in, e auspicata. E su questo la parola delle compagne dell'Aquila è prioritaria, perché loro abitano quel territorio, quindi hanno fatto venire meno questa disponibilità al 25 aprile unitario. Novembre, la liberazione niente. Che è con te, è con un noi. Lapsus che incappiamo, sì, spesso. Vabbè, ma... ovviamente, sempre di liberazione si parlava. Infatti, sì, e quindi appunto diciamo che è un po', c'è stata una sottrazione, ecco, insomma, da parte delle compagne dell'Aquila a questa cosa. Capiamo, hanno dato delle motivazioni legate a una situazione difficile proprio del loro gruppo, a una debolezza, diciamo, di cui si sentono in questo momento portatrici. Noi, diciamo, speriamo che invece questi incontri nazionali aiutino proprio, perché nessuna di noi è particolarmente forte nei propri territori, però forse unendo le forze si può andare anche molto avanti, come ha dimostrato anche il presidio del 18 ottobre. E in ogni caso, appunto, loro sono venute in assemblea portando questa posizione discussa precedentemente all'interno del centro, che immaginiamo essere anche una realtà molto complessa, composita, ampia, e che si sta occupando, insomma, e segue un percorso suo. Motivo per cui diciamo non hanno, almeno insomma per il momento e per questo 25 novembre, dato questa disponibilità. Ma noi ci proveremo ancora. non tanto magari all'Aquila, non tanto io, poi c'è anche questo ritualità delle date, che comunque pure noi non siamo particolarmente amanti di stare per forza sulle date che hanno questo valore simbolico e sono anche soprattutto molto istituzionali. Secondo, personalmente penso che sia importante riaprire un discorso tra noi su questi temi, altrimenti veniamo appunto mangiate e fagocitate da un femminismo moderato piuttosto che da vere propri qualunquismi sul tema, perché quando si leggono i quotidiani sul femminicidio o cose del genere non sempre si fanno delle analisi approfondite, si dicono delle cose molto superficiali, alle volte a parte non vengono neanche nominate come tali, se non che adesso il termine va tanto di moda, però poi sono sempre, se si va a vedere come costruiscono il fatto, si capisce che in realtà non è che si siano spostati nel ragionamento di tanto. Quindi secondo, cioè, è importante che noi femministe e lesbiche, appunto radicali, come lo diceva Angela Davis, Dare non ha voluto mettere la citazione, ma nel senso, cioè non abbiamo voluto mettere la citazione nel testo, sì, però di arrivare alle radici ma di cose. Arrivare appunto alle radici delle cose e guardarle in faccia, prenderle e riuscire appunto poi a districarle. Secondo me questo è molto importante. Dobbiamo parlare di violenza perché ci riguarda tutte, sì, non tanto infatti. Per usare slogan, ma ci riguarda veramente tutte, per motivi che non sto neanche a spiegare alle nostre ascoltatrici, credo anche non ce ne sia bisogno. In effetti non abbiamo molto il tempo di entrare, ma poi magari, perché no, qualche approfondimento anche su questo livello può essere interessante. E avremmo, cioè ovviamente... Noi in realtà poi siamo con questi pensieri collettivi che abbiamo fatto, c'è l'idea di girare appunto questi altri luoghi di riflessione collettiva che si... di appuntamenti noti quantomeno, sì, nel resto d'Italia, per poter appunto iniziare a far circolare questa voglia e questo desiderio, vedere se incontra altre voglie, altri desideri, e poi vedremo che cosa nasce. Nel senso, il martedì è qui e sicuramente si farà megafono di qualsiasi cosa di venga in questo senso, e che quantomeno racconti anche un po' di noi e del nostro pensare. Le donne, le femministe, la politica appunto contro la violenza maschile degli uomini, cioè sulle donne. Sì, intanto in ogni caso noi continueremo a seguire il processo per stare accanto alla donna sopravvissuta allo stupro di Pizzoli, e quindi lo ricordiamo, il 19 novembre c'è anche una perché prossima... ricordiamo che è un desiderio espresso di solidarietà, certo, che ci è stato chiesto da appunto da questa donna, quindi perché negarlo sarebbe... certo. E poi abbiamo, insomma, tra di noi ci siamo detti alcuni degli appuntamenti prossimi, uno è il 9 a Firenze, ne parleremo fra pochissimo anche dentro questa agenda, e poi, e ne parleremo bene la prossima settimana, il 17 e il 18, questo incontro delle donne promosso dalle donne della Notav, che appunto ovviamente ha maggior ragione per il tipo di riflessioni che si sono intersecate in quell'assemblea, che riguardavano anche la militarizzazione. Ci interessa molto, per cui, che dire, noi ci abbiamo provato a mettere insieme questi percorsi. Probabilmente le relazioni vanno insomma costruite. Bisogno di cura e affetto, come i semi, le piante, cioè gli alberi, ci vuole tempo, ci vuole. Ma noi non abbiamo fretta. Va bene, e con questo abbiamo fatto la nostra restituzione, e fra pochissimo torniamo con l'agenda.